A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Sotto il portico di via Valdonica a Bologna, il rumore dei passi si mescola all'eco sottile di un vociare lontano. Qualcuno alza lo sguardo verso la targa, più nuova delle altre, che dedica a Marco Biagi, l'unico slargo di questo groviglio intimo di stradine e passaggi. In 10 anni tutto è rimasto uguale qui, nel cuore dell'ex ghetto cittadino, profanato dagli spari di un terrorismo che si credeva estinto. Era il 19 marzo 2002, quando proprio qui, davanti a questo portone di casa, quel che restava delle Brigate Rosse uccideva il giuslavorista Marco Biagi, collaboratore del governo sulla riforma del mercato del lavoro. A terra rimanevano la borsa da professore e quella bicicletta, divenuta l'immagine simbolo dell'attentato. 10 anni dopo, e proprio quando sembra che un'intesa sulla riforma del mercato del lavoro è vicina, parte da qui, dal portico di via Valdonica, l'intervista di A ciascuno il suo col ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, che questa città l'ha anche amministrata come commissario. Un'intervista che toccherà molti altri temi, ma che parte da qui. Ministro Cancellieri, partiamo da una ricorrenza, il 10° anniversario dell'omicidio di Marco Biagi, un anniversario che oltretutto cade anche nel pieno proprio del dibattito sulla riforma del mercato del lavoro. Qual è secondo lei oggi il modo, 10 anni dopo, migliore per ricordare Marco Biagi? Il modo migliore sarebbe quello di fare un'intesa bella, solida, duratura sul mercato del lavoro, che dia la possibilità ai giovani di avere prospettive di occupazione, l'industria di poter lavorare e comunque di diventare competitivi nel mercato internazionale. Un bel patto che tenga conto dei bisogni di chi lavora e anche delle necessità di una società in evoluzione. Speriamo che proprio il ricordo di Marco Biagi, che era uno che queste cose le aveva viste, che aveva capito il mutare dei tempi, si possa trovare una cosa che sia giusta sotto il profilo dell'impegno sociale, della solidarietà e dello sviluppo, e nello stesso tempo sia giusta per chi deve lavorare. Questo accordo che sembra ormai vicino va in questa direzione, secondo lei? Io penso proprio di sì. Credo che ci sia la volontà di trovare la quadratura del cerchio per conciliare le diverse esigenze. Marco Biagi, appunto, lavorava ad un progetto di riforma del mercato del lavoro. C'era l'argomento delicatissimo dell'articolo 18 che ritorna anche oggi. Marco Biagi 10 anni fa cadde sotto il fuoco dei brigatisti. Questo pensiero, nel momento in cui oggi si discute di riforma del mercato del lavoro, è per lei una preoccupazione? Biagi è morto 10 anni fa e non dimentichiamo che è morto poco dopo D'Antona. Loro hanno pagato con la vita un'evoluzione in questo settore che prevedeva, comportava proprio dei cambi strutturali mentali su queste tematiche. Sono certa che il loro sacrificio non è stato inutile, perché su di questo si è molto discusso, si è molto cresciuti e sono cambiate tante cose. La situazione è sempre molto complessa quando si affrontano questi temi, ma io credo che c'è una consapevolezza più forte da parte di tutti di essere molto sereni nell'affrontare queste problematiche. Oggi una situazione come quella che ha portato all'omicidio prima di D'Antona e poi di Marco Biagi, secondo lei è da escludere? Sono sempre temi molto delicati e quindi non ci sarà mai la sensibilità, magari può sfuggire in qualche modo, però io penso che ci sia una maturazione diversa delle problematiche e quindi ci sia una maggiore serenità. Oggi in Italia non può succedere di nuovo quello che è successo in questi due casi? Penso di no, mi auguro di no. Sicuramente c'è un clima ideologico molto ben acceso, cioè adesso si discute, si parla in maniera molto così conflittuale, è vero, anche forte, ma senza arrivare a delle derive, a degli estremismi che invece purtroppo nei tempi di Marco Biagi ci sono state, ecco. Quindi sicuramente c'è un diverso approccio. Quelle derive secondo lei furono anche, diciamo, in qualche modo parte di quel clima che portò a quel delitto? Purtroppo molto spesso i riformisti hanno pagato con la vita le loro scelte. Io non dimentico un'altra vittima del terrorismo per cause del tutto diverse, Guido Rossa a Genova. Certo, però questo per l'Italia è anche un momento da un punto di vista economico e quindi anche sociale più difficile forse di 10 anni fa. Gli ingredienti di difficoltà e di crisi economica non alimentano un rischio che ci possano essere delle derive violente? Tensione sociale è sicuramente c'è è molto adesso e molto più di 10 anni fa, e situazioni di malessere diffuso, di benessere ridotto, sicuramente adesso siamo molto peggio di quanto non stessimo 10 anni fa, però adesso c'è una maggiore consapevolezza, proprio forse questa crisi e le difficoltà di questa crisi, l'essere stati sull'orlo del baratro e non essere ancora usciti totalmente dal tunnel in cui siamo, e credo che abbia reso tutte le persone più consapevoli che il momento è complesso, è delicato e difficile, ma dobbiamo stare tutti uniti. Io ho molta fiducia nel paese. Quindi lei dice che le tensioni sociali sono maggiori di 10 anni fa, ma c'è una consapevolezza diversa. Ma nel concreto, ad esempio, se queste tensioni sociali sono maggiori, voi al Viminale avete avuto la necessità, ad esempio, di rafforzare delle scorte? Non abbiamo rafforzato scorte, perlomeno non abbiamo più scorte di quanto non ce ne siano normalmente. Naturalmente variano, non c'è stato un incremento delle scorte. Anzi vuol dire una riduzione? Le abbiamo ridotte parecchie, sì. Ministro, questo invece Marco Biagi non le... Lei affronta un argomento che per me è delicatissimo e che mi fa una grande tristezza proprio. All'epoca ritennero così, e io non posso dare giudizi su chi ha fatto le scelte o sulle condizioni che avevano per sapere o non sapere. È una cosa molto, molto dolorosa. È una forma di debito che lo Stato porta con la famiglia di Marco Biagi? Io, a parte che ho un legame personale con la signora Biagi, l'ho frequentata quando ero commissario a Bologna, sento molto la vicinanza, sento molto veramente questo peso, questo fatto che purtroppo non siamo stati capaci di difenderlo. Insomma, è stato chiarito tutto del perché. Guardi, sull'argomento ci sono state inchieste. Certo, ci sono dei processi che sono arrivati anche a delle... processi, quindi io non sono in grado, anche perché non conosco poi gli atti in particolare, se ci fossero state delle responsabilità sarebbero uscite, ecco. Ci sono quelle penali, ci sono anche quelle, diciamo... quelle morali. Difficile dare giudizi di cose che non conosci, di cui non conosci tutti i passaggi. Io come amministrazione sento comunque il dovere di stare loro vicini, perché lo sento come dovere dello Stato, del Paese, perché comunque è una persona che ha immolato la sua vita per il Paese, quindi comunque sia, penso che noi dobbiamo molto, molto riconoscere Marco Biagi. Se appunto, come lei diceva, nonostante le tensioni sociali, diciamo il clima complessivo intorno a questo tema è più disteso rispetto a 10 anni fa, in questo momento per voi, per il Viminale, qual è la fonte delle vostre maggiori preoccupazioni? Sono intorno al movimento No TAV e a tutto quello che c'è stato, oppure ad esempio è in un'altra area? Noi abbiamo diversi focolai che guardiamo con attenzione, il No TAV dei primi chiaramente, anche se io sono convinta che il dialogo stia avendo i risultati che auspichiamo. Abbiamo avuto delle giornate difficili con le manifestazioni degli autotrasportatori, forconi e poi i pastori sardi, cioè tutta una serie di fenomeni legati a difficoltà finanziarie, a malesseri. I focolai sono tanti, senza contare che la stessa situazione finanziaria, la stessa situazione economica richiede una grande attenzione, perché è un brodo di cultura dove può accadere di tutto. Però noi siamo molto, molto attenti e molto vigili. Senta, io poi sono un ottimista e siamo davanti a un paese fatto di gente molto seria. Però, come lei stessa ha già ricordato, e come ad esempio anche il capo della polizia Manganelli aveva denunciato, ci sono poi delle potenziali criticità, dei potenziali rischi ben concreti. Dei rischi ci sono, ma ci siamo anche noi. Lei ha citato sia i No TAV sia tutta l'area anarco-insurrezionalista. Ricordiamo anche gli attentati che ci sono stati contro Equitalia. Secondo voi, ecco, un altro fenomeno che non ho citato ma che è gravissimo. Ecco, è lì secondo voi che può esserci il rischio di un salto di qualità da parte delle azioni degli anarco-insurrezionalisti? Gli anarco-insurrezionalisti sono un fenomeno molto complesso e molto pericoloso. Al momento non abbiamo qualcosa di particolarmente drammatico, però non perdiamo di vista nulla. E invece per quanto riguarda tutto ciò che c'è stato intorno al movimento No TAV, secondo lei c'è stata una forma di strumentalizzazione di quel movimento da parte di frange più volente? No TAV significa tante cose, ci possono anche essere anche delle ideologie dietro le quali si possono nascondere anche fenomeni avversivi, perché possono prendere degli sviluppi e delle forme che vanno molto al di là della semplice semplice protesta ambientale o della protesta dei valligiani. Quindi, perché ormai è diventato un po' un simbolo, no? Era come il simbolo contro le centrali nucleari, adesso c'è il simbolo NOTAV, un filone molto delicato perché si è caricato di significati ideologici che vanno molto al di là della TAV per quello che rappresenta o per il tipo di lavoro che poi si farà. Non è quel mostro che viene vissuto, ma viene vissuto come un fenomeno di una situazione anche particolare e per cui diventa l'oggetto e il segnale di tutta una serie di malesseri. E in questo momento su NOTAV tutti i gruppi sociali eccetera hanno messo le loro attenzioni. Io sono convinta però che parlando, e questo lo stanno facendo, ascoltando le popolazioni, alla fine chi non è direttamente interessato verrà isolato, perché comunque saranno manifestazioni un po' come le manifestazioni che si sono avute per il G8, per il G20, cioè sono segni di malessere di una società moderna che a volte vede degli obiettivi per manifestare un dissenso. È importante riuscire a distinguere questo da quelle che sono le naturali, le giuste proteste. A ciascuno il suo. Anna Maria Cancellieri l'ha segnata due volte Bologna nella sua agenda fitta di impegni. Il ministro dell'Interno ha voluto esserci in tutte le occasioni dedicate alla memoria di Marco Biagi, il giuslavorista ucciso esattamente 10 anni fa dalle Brigate Rosse. Un anniversario, come abbiamo detto nella prima parte di A ciascuno il suo, che cade nel pieno della discussione proprio sulla riforma del mercato del lavoro e che apre anche a confronti e moniti sui rischi dell'attuale tensione sociale nel paese. Ma i focolai che preoccupano il Viminale, per usare le stesse parole del ministro Cancellieri, sono molti di più, come la TAV. E da qui ripartiamo, ma dai rischi di infiltrazione mafiosa nei cantieri della Valsusa. Ho toccato un tasto giustissimo, perché Saviano fa notare che ogni operazione in cui ci sono appalti potrebbe essere un'operazione in cui poi si incida la criminalità organizzata. Un rischio ricorrente su tutte le grandi opere, abbiamo visto per l'Expo, sì, la TAV. Sì. Ecco, però non è che noi non stiamo occupandocene di queste cose, tant'è vero che sia per l'Expo che per la TAV sono operativi dei protocolli di legalità che vanno a vedere gli appalti in tutte le loro manifestazioni, anche negli appalti sotto soglia. Lei sa benissimo che si controlla solo sopra una certa soglia. In base a questi accordi noi andremo a vedere anche gli appalti sotto soglia, andiamo a vedere il movimento del denaro che c'è intorno a queste grandi opere, con controlli mirati, di più forze che intervengono sul territorio, quindi è un'attività molto articolata e molto complessa, che ha già dato nelle grandi opere che abbiamo seguito degli ottimi risultati, ma saremo ancora più precisi e ancora più bravi, perché il pericolo che dice Saviano è un pericolo verissimo, sappiamo bene che c'è, però d'altra parte non è che si può per questo non far nulla, cioè bisogna attrezzarsi e andare avanti, perché guai se ci fermassimo per paura. Ad esempio, tra i vari progetti ci sono anche quelli, io stavo arrivando qui a quello del rating antimafia per le aziende, sì. Però ecco, andando oltre, un altro argomento che è un argomento che viene molto sentito anche dall'opinione pubblica e che è molto dibattuto anche a volte in modo acceso, è quello della lotta alla corruzione. Con il DDL che arriva adesso in aula, i magistrati dopo il ventennale Mani Pulite denunciano che è come allora se non peggio, ci sono un susseguirsi di inchieste di vario tipo sulla corruzione, ma ad esempio inchieste nuove ma anche delle tipologie vecchie. Ci sono magistrati come Francesco Greco, procuratore aggiunto di Milano, che dice i partiti oggi non hanno affatto il problema di come trovare i soldi, ma c'è opacità nella gestione dei loro soldi. Il tema della corruzione sia il tema emergente proprio di questi tempi. La corruzione è molto importante, ci sono degli aspetti collegati a nuove normative che sono in discussione in Parlamento e sono anche degli aspetti, diciamo così, amministrativi, preventivi. C'è questa figura che una volta si chiamava commissario per la lotta alla corruzione, che è stata modificata e che adesso i suoi compiti sono stati attribuiti al ministro della funzione pubblica. Ecco, il ministro della funzione pubblica sta lavorando su questo tema, perché è un tema che riguarda la corruzione pubblica, cioè la corruzione che riguarda i pubblici amministratori. Ecco, ora noi stiamo facendo un discorso con il ministro della funzione pubblica, faremo una conferenza su questo tema e poi abbiamo una serie di attività da porre in essere che prevederà non solo e questi aspetti preventivi per il pubblico ufficiale, per il dipendente dello Stato, diciamo, perché la competenza è per la corruzione dei dipendenti dello Stato. Ma vogliamo aprire dei discorsi con l'ANCI, con l'UPI, con tutti questi organismi che qui fanno riferimento degli organismi elettivi, per poterli mettere nella filiera dei controlli e stabilire una serie di attività di controllo che poi perifericamente vengono svolte dalle prefetture. Ci stiamo lavorando, perché questa è un'attività preventiva interessante, perché questo paese deve imparare molto a fare prevenzione. Noi adesso l'unica cosa che conosciamo è la repressione. L'unica cosa che conosciamo è quando arriva il magistrato. Ebbene, l'amministrazione deve essere in grado preventivamente di controllare al suo interno. Stiamo cercando di immaginare, di mettere a punto una serie di provvedimenti che rendono più efficace l'attività preventiva, che è fondamentale, perché preventivamente si possono evitare tante situazioni. Non teme che possiate essere bloccati, diciamo, dai veti dei partiti? Questo è un tema molto, molto delicato. Ma guardi, può darci, nulla, non si può mai dire nulla, però io credo che ci sia una forte presa di coscienza anche da parte dei partiti, da parte di tutta la società civile, che occorre un cambio di marcia, un segnale importante, perché la gente lo vuole con forza e non ne può più. Quindi i partiti sono convinta che sentono anche loro il peso di questa responsabilità. Quindi non c'è un rischio, diciamo così, che vi possano fermare su temi sensibili, questa è la corruzione, altri ci possono essere la giustizia o altri, questi veti un po' incrociati? No, io penso proprio di no. Io credo che sia importante mandare messaggi giusti e non mandare messaggi di una parte piuttosto che di un'altra, ma messaggi concreti, seri, equilibrati, e guardi, su questo siamo tutti d'accordo. L'ultima cosa che le chiedo, Ministro, è proprio ancora di questo tipo. Ogni tanto si dice che questo governo potrà durare più di quanto non si pensasse all'inizio, però allo stesso tempo ci sono stati anche episodi come martedì scorso, quando l'esecutivo è stato battuto 3 volte. Sì. Che succede? Teme che si allarga la distanza tra i partiti e il governo, oppure ad esempio ci sono ancora anche le condizioni perché invece si possa andare avanti anche più di quanto all'inizio non si pensava? Ma guardi, l'impressione che io oggi è ancora quella che avevo ai primi tempi, cioè di una volontà di quella che chiamiamo la nostra maggioranza, chiamiamola così, di andare avanti. E non vedo delle sfaldature, sicuramente ci sono stati dei momenti, delle difficoltà, perché non è facile nemmeno per loro, dobbiamo renderci conto che stanno facendo uno sforzo veramente, veramente straordinario. Però io ho la sensazione che ci sia ancora la voglia di andare avanti. Se poi oggi è così e domani cambia, questo non lo so, perché appunto non sono in grado di leggere il futuro. Però al momento io credo che ci sia ancora la voglia di andare avanti. Perché secondo lei non è facile per i partiti? Beh, comunque sa, sono partiti diversi che si devono trovare d'accordo su alcuni temi, quindi bisogna trovare l'intesa tra partiti che devono digerire anche di avere, diciamo, altri che stanno prendendo le decisioni al posto loro. Sì, è molto buono. A ciascuno il suo finisce qui. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it nella sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, o sul blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.